Ciao! Ciao Alice! Ciao Marika! Come stai? Bene! Grande! Arrivate alla 17ª puntata! Decima! Alla decima puntata siamo arrivate! Ciao Radio Risacca! Ciao! Oh. Come state? Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Oggi vi parleremo del mirto mirtaceae, detto anche dal latino mirtus communis. Dai, è grande, che è appena uscito, soprattutto sta sbocciando adesso, sta maturando adesso. E infatti, quali sono le parti usate di questa pianta? Possiamo usare sia le foglie che le bacche. Wow. Hanno le stesse proprietà terapeutiche. E quali sono queste proprietà? Aromatizzanti. Ok. Astringenti. Olè. E antisettiche. Oh. Beh, allora fanno benissimo. Quindi trovano un grande impiego. Dove? Nelle affezioni bronchiali. Ok. E? Quindi riguardanti l'albero respiratorio. Ok. E nelle dispepsie. Ok. Cioè nelle alterazioni della funzionalità gastrica. Perché sembrava una parola difficile, infatti. Dispepsie. Dispepsie, quindi ecco, alterazione delle funzionalità gastrointestinali. Sì, giusto. Ma trova un impiego terapeutico anche a livello topico, quindi a livello esterno, come? Per esempio nelle gengiviti, nelle emorroidi e nella, aiutami Alice, nella leucorrea, giusto? Giustissimo. Anche se c'hai dei problemi alle parti basse, diciamo che è la vostra pianta. Yes. E abbiamo scoperto che è conosciuto fin dall'antichità ed è menzionato addirittura dall'Antico Testamento. Yes. Giusto? E cosa dice l'Antico Testamento? È un po' quello che sappiamo ai giorni d'oggi, cioè che le foglie e i frutti, aga, le bacchette viola, le bacche, sono considerati tonici, stimolanti, astringenti, quindi anche in caso di diarree. Okay. E tenifughi, nel senso che... Altra parola difficile, eh? oggi è serata, oggi è giornata. Che significa tenifughi? Ghi che mette in fuga, ma non è vero, che cura le infezioni da tenia, cioè il cosiddetto verme solitario, cioè i parassiti intestinali in genere. Ok, beh, interessante. Interessantissimo. E poi in quali altri modi lo possiamo usare, per esempio? Ha un olio essenziale in grande quantità e è molto potente. Ok. E possiede delle valenze terapeutiche, diciamo, quindi ha una terapia analoga a quella dell'olio essenziale di eucalipto e della conosciuta malaleuca del tea tree, quindi è molto simile. Sì, è molto simile, diciamo, chimicamente a questi oli essenziali. Quindi l'eucalipto è molto molto molto accostato alle terapie per le infezioni delle vie respiratorie, quindi lo stesso fa l'olio essenziale di mirto, perché hanno le stesse proprietà chimiche. Ok. E quindi anche tutte le proprietà antisettiche del tea tree le ritroviamo nello stesso modo nell'olio essenziale di mirto. Quindi se lo abbiamo tra le mani sappiamo come usarlo. Capito? Capito, ragazzi. E poi sappiamo anche, diciamo, anche gli altri modi per utilizzare queste bacche, per esempio sotto forma di decotti o di infusi. Sì, giusto? Meno costoso e quindi alla portata di tutti. Certo, perché soprattutto noi che siamo qua in Pineta, vai a fare una passeggiata in Pineta, è pieno di piante di mirto. Certo. Possiamo raccogliere sia le foglie che le bacche con molta cura, senza distruggere le piante che... Esatto. Purtroppo per fare il buonissimo liquore troviamo a volte saccheggiate. Esatto, perché ricordiamo sempre, c'è sempre un modo di raccogliere bacche, fiori e foglie diamo anche la possibilità alla pianta di rigenerarsi, quindi non siamo egoisti, ok? Non cerchiamo di saccheggiare tutta la pianta, lasciamo sempre un po', in modo che poi l'anno prossimo si possa rigenerare. Quindi abbiamo detto possiamo fare dei decotti e delle infusioni e spezzettiamo un po' la spezzettiamo foglia. Ok, sì. E le bacche prima di usarle le secchiamo, però okay. In questo caso è sempre meglio prendere le foglie, tagliuzzarle, che si seccano meglio, le possiamo essiccare meglio. Ok. E facciamo il nostro decotto, il nostro infuso, è uguale. È uguale. E si possono usare come una preparazione astringente, cioè okay. Abbiamo le gengive gonfie, facciamo dei sciacqui con questo infuso. Olè. Abbiamo delle emorroidi, facciamo degli impacchi con questo infuso, eccetera, okay. Eccetera, eccetera. Oppure ce lo beviamo e agisce molto meglio da dentro. Quindi ciao. Anche per pelli e mucose irritate. Sì, esatto. Okay. Quindi okay. È una pianta molto molto funzionale che potete usare per quasi tutti i vostri problemini. Ok? È interessante, interessante, ci dovremmo andare a fare una passeggiata per raccogliere un po' di mirto. Però ragazze e ragazzi, attenzione, perché questa pianta possiede anche delle parti tossiche che a dosi elevate, soprattutto perché come abbiamo detto prima è ricchissimo di olio essenziale, può provocare delle nausee e cefalee e può portare anche alla depressione dell'individuo stesso. Quindi non abusatene, adesso riparte il bugiardino. Attenzione, non abusatene perché veramente può farvi male, ok? Quindi abbiamo detto la nostra infusione, il nostro decotto, speriamo che vi possa aiutare nei vostri piccoli problemi, ma non ci dimentichiamo della tintura madre, che l'abbiamo già accennata alla puntata passata. Esattamente, quindi se abbiamo delle infezioni, tipo anche un semplice raffreddore, si può prendere la tintura madre di Mirtus Communis. Ok. Specifichiamo perché le tinture madri vanno sempre acquistate con il nome latino, botanico, sì, botanico latino specifico, col nome specifico. Sì, perché spesso si fa confusione. Certo, certo. E si assumono 30 gocce 3 volte al giorno. In mezzo bicchierino d'acqua o anche così? Due dita d'acqua. In due dita d'acqua. Ok, come abbiamo detto anche alla puntata precedente. Mi raccomando, potete, non lasceremo la ricetta perché comunque è un procedimento molto lungo, però lo potete trovare tranquillamente in farmacia, se hanno il reparto erboristeria, o anche in erboristeria, ok? Ok, ci siamo. Ci adesso siamo, ci siamo. Marica ci lascerà un'altra bellissima ricettina. Olè! E questa spero che vi piaccia, interessante questa ricetta. Visto che del mirto possiamo usare bacche, foglie per fare qualsiasi cosa, ricordiamoci che si può fare anche il famosissimo liquore di mirto, ok? Che in Sardegna è più rinnovato, proprio il top level. Quindi, come si fa? Dosi. Soprattutto, cosa ci serve? Un chilo di bacche di mirto, mi raccomando, ben mature, quindi non abbiate troppa prescia nel raccoglierle, visto che sono appena uscite. Aspettate un pochino, aspettate un altro mesetto ancora, anche fino a metà agosto, in modo che la bacca è bella matura. Quindi raccogliete un chilo di queste bacche. 1 litro di alcol a 95 gradi, 2 litri di acqua e 600 g di zucchero, ok? E adesso preparazione, lo leggiamo lentamente così potete prendere appunti, va bene? Allora, si versano le bacche all'interno dell'alcol, ok, tenendo in macerazione il tutto 40-50 giorni al okay. Buio, quindi dentro una credenza che non abbiamo mai. Mai nella vita dovremmo aprire per questi 40-50 giorni, non dobbiamo mai aprire questa credenza, ok? E quando ci ricordiamo andiamo anche in una bella scegherata. Al buio sempre, non facciamogli arrivare alla luce del sole. Poi, finito questo tempo di macerazione, possiamo filtrarlo e aggiungere questo macerato allo sciroppo preparato con acqua e zucchero precedentemente raffreddato, perché certo, devono essere tutti e due freddi. Dopodiché lo lasciamo in riposo per altri 15 giorni, va bene? E se il liquore magari vi sembra troppo denso per via dei residui di bacche che si possono depositare sul fondo, potete nuovamente filtrarlo, mi raccomando. Se vedete che vi ha fatto un po' troppa cosa, potete filtrarlo con un panno, con una tela, con la carta si filtra, con un collino, qualcosa, lo potete rimbottigliare, ok? Poi, come sappiamo, un liquore più sta in tempo di riposo e più viene buono. Esatto, riposo sempre in un luogo fresco e asciutto. E ragazze e ragazzi, imbriagate. Buona ubriacata, soprattutto con la risacca, mi raccomando. Pensateci al gusto di Mirko. Risacca al gusto di Mirko. Mamma mia, che paura! Ragazze e ragazzi, speriamo che vi sia piaciuta questa puntatina sul mirto. E adesso, come ogni puntata, vi lasciamo la perla della saggia che vi accompagnerà per tutta la settimana. Prego, saggia. Si schiarisce la gola intanto la saggia che ne ha bisogno. Con una fronda di mirto giocava ed una fresca rosa, e la sua chioma le ombrava lieve l'omero e le spalle. Wow! Al ceo! Del 100.000 avanti Cristo. Minchia! Grazie, saggia, come sempre. Arigato. Che ci accompagnerà per tutta questa settimana e ci accompagnerà nella nostra risacca. E molto sudata perché fa caldissimo, è iniziata veramente l'estate. E adesso, ragazze e ragazzi, noi vi salutiamo. Au revoir, a bientôt e buona risacca. Ciao Radio Risacca, ciao a tutti, e come sempre è stato un piacere. Ciao.